All'uscita di scuola lo vedi dagli occhi, se dentro lo zaino c'hai tocchi. Non c'è mamma che ti viene a prendere in auto, ma la strada tu la conosci. I nomi e le facce in sti posti, buchi nei muri coi soldi nascosti. Cresci pensando sia giusto però è troppo tardi quando te ne accorgi. E passano gli anni ma non cambia la testa, non cambia la voglia di scappare da sti palazzi. Metà gli viene un tumore, metà diventano pazzi. Urla schiamazzi, pacchi di ganja portati nei taxi, sporchi contanti. Perché non è detto che un giorno faremo i cantanti. Quindi fanculo, resto con chi campa ancora vendendo quel fumo, ma senza mai dar la vinta a nessuno, senza aver mai leccato qualche culo. Io fra ci credo a un diverso futuro, ma il cielo nel blocco resta sempre buio. Non filtrano i raggi da questi palazzi e non vedono il sole. Tutti quelli come me che tornano tardi ed escono presto, scontano anni dopo l'arresto. Non siamo grandi per tutto questo. Crescono in fretta i bambini come me, che fanno i soldi come me, l'odio negli occhi come me, brutti sogni come me. Abituato a tuo padre che ti compra ciò che non hai. Poi passi sotto il palazzo sbagliato e ti fanno l'iPhone e ti fanno le Nike. I miei frati hanno le brutte facce, perché passano le giornatacce. Perché al cellulare siamo in 10, perché la puntata è ancora sulle nostre tracce. E non è mica un film, pila dentro i jeans, bila per i G, fila per la weed nei parchetti a Cini. Zello dice, tu vivi dentro una villa, settimana bianca con tutta la tua famiglia. I miei fra la settimana bianca se la fanno in casa con le tappare, le basse, il cellulare che non squilla. Sai che in testa ho soltanto il cash, in tasca soltanto 3 euro per pizza e caffè. Tu che mi chiedi perché, ma in testa ho soltanto il cash, in tasca soltanto 3 euro per pizza e caffè. Tu che mi chiedi perché, quelli come me non hanno niente da perdere, perché non hanno mai avuto niente. Sai, hanno tutto da prendere, ma la strada giusta non c'è. Quelli come me.